primavera, è come in una sfera, come la vita vera dove tutto gira. Dentro ad un binario, chiusi in un acquario, non è più necessario lo straordinario. Dagli orizzonti vasti, in angoli nascosti, valutando i ricavi e i costi, navigando a vista, a vela sotto costa, non cerca nemmeno una risposta. Ciò che ci resta. Senza ragionare, lasciandosi portare, insieme alla corrente viaggiare. È una stella polare, un diamante di mare, che non indica più dove andare. Ma come in un momento potrà girare il vento e far cambiare di colpo il tempo. Quello che io sento mi sta crescendo dentro, è il profumo di un sentimento. Sei dentro di me, tu sei la pioggia che cade la neve, e son le ore passate con te, ore di mandorle e miele, sfiorando con le dita la tua anima inquieta, dietro un velo degli occhi la neve, è una stella che guida e che ci segna la riva, come un'alba infinita la vita. Che ci resta è quello che basta, senza pesare parole, suoni, ritmi e canzoni, sogni e illusioni e le delusioni. Valutando i ricavi e i costi, navigando a vista, a vela sotto costa, insieme troviamo una risposta. Ciò che ci resta è quello che basta, senza pesare.